nel guanto bianco della luna, sorride all'acqua, la notte albina. Siamo gli ultimi brandelli di una bandiera vera, che non sai più se c'è, ma che una volta c'era. Capissum la fatica, ich forste la formiga, capissum è un progress che sposta la cadrega. Ci chiamo paesani, ma siamo gli spaesati, i chiodi della storia ormai arrugginiti. Abbiamo lunghe ombre, ripariamo la memoria, restare al nostro posto ormai è l'ultima vittoria. Sempre che sì, quel che si sempre sta, fem quel che fem, quel che sempre fa, chi sa inguenare ma finì, ma segniamo partì. Siamo stati gli emigranti, siamo stati ritornanti, vi abbiamo riempito i libri credendoci ignoranti. Ci hanno insegnato i trucchi per essere moderni, ci hanno fatto scrivere tutto e poi buttare via i quaderni. Come fili sottili di un mondo che si scuce, siamo l'urlo dello strappo che per adesso tace. Sembriamo senza tempo, sembriamo senza pace, ma chiamerete noi quando andrà via la luce. Chiamano paesani, ma siamo gli spaesati, varichiamo dei confini soltanto immaginati. Riconosciamo il nome del posto in cui viviamo, ma abbiamo perso il codice per capire chi saremo. Sem quel che sem, quel che sem sempre sta, fem quel che fem, quel che sempre fa, chissà inguenare ma finì, ma segniamo partì. Paesati, anche bloccati cui ci sentiamo trasferiti. Siamo l'ultima frontiera tra il ricordo e il cambiamento. Siamo il popolo nascosto, sorvegliamo un faro spento. Maglietta, la spurca de tut, ero il dio del tuono e adesso il magut. Stringiamo il martello e picchi bel precis. Pulver de sas e una quai cicatrice nel calderone magico della bete miera, gira l'incantesimo de acqua e de terra. Il badil è la mia lancia, la cazzola la mia spada, e scudo l'el frataz che carezza la facciata. E pietra bacia pietra, e per maton sura maton, traccio le mie rune cul mazzotte cul picon. Verranno giganti del ghiaccio e demoni del fuoco, ma qui c'è il tuo riparo che cresce poco a poco. Di fuori vedi il cemento, ma dentro è tutto cuore. E chi non lo capisce non ha fatto il muratore. O bagnar me capel, brusa la mia schiena in questi quarumur che dentro ogni mia vena. Udino l'el me pa con tel metro e cullifel, quan lauriel me da un ac, anche perché che resta duma quel. Architetti venuti da Asgard e il geometra de purza, e come una dea vichinga avrai anche tu la tua fortezza. Se farà una quai cazzada e il mio frede malvagio Loki, chiedo tanti martellat che basterà mena un camion de occhi. E pietra bacia pietra, e per maton sura maton, raccio le mie rune cul mazzotte cul picon. Avrai il tuo bel portico e un ponte arcobaleno, nove porte per nove mondi e non uno di meno. Di fuori vedi il cemento, ma dentro ci ho messo il cuore. Parola del mitico Thor, professione muratore. Una goccia di rossa e una goccia di onda gialla, quando il sole è senza faccia e porta la luna sulla sua spalla, quando nell'acqua dei tuoi pensieri affonda ogni barca di carta, l'ombra cuce con ago e filo, ma solo la notte sarà la tua sarta. De onda bianca e una guta de onda verda, timbra la feia della memoria prima che il vento te la perda. Svolta la luz, spazza la grappa, intanto una stella la se destaca, vegnerà l'aria vestita de scur, punta il martel de tron che pica. Una guta de onda sincera e una guta de onda falsa, i tuoi ricordi veren la paga e ogni fantasma la sua rivalsa. Ogni sas che fa frecas parla del pasche che scuscia la crapa. Imparerete a coltivare il cœur a colpi de vanga e a colpi de zappa. Una guta de onda scura e una guta de onda ciara, mafia dal fum del falò de ier, e pizza al duman che se prepara, schiappa la rosa prima che spun, prova il profum prima che scappa, e cerca il rimorso, puscia la sua fionda, fa smenga vedè che altrimenti il teciapa. Una goccia di onda bimba e una goccia di onda vecchia, l'amore ha il suo pennello che prima o poi lascerà una macchia, passa il tempo che graffia il quadro e rovina la cornice, ma verrà un altro pennello a colorare ogni tua cicatrice. Jazz, quel sign sul bordo del piat, resta l'ombria di una maschera storta e una perla nella sabbia del gat. Forse le un'ala sbattuta di noce, quanche la gente la capì neanche ai facci. Resta il fracas di chi sarà la porta, quanche il turna in tre del suo viaggio. Ogni semaforo al volo avrai ragione, ogni rotabile un pezzo di canzone. Smorza la radio, senti che bel vento, cal porta i sospiri una luna in persona. Guarda la strada e fammi l'olt, per una scambia alto fresco un tel colt. In due la strada finiva de cult, come in sciat coraggius e facemmo solt. Oh Lord, please tell me in the golden hades. Oh Lord, please tell me tu secco de fates. Quando tira il vento ha spiegato il fior e mastica sto cuore un cœur fa de chewing. Che breve tasca shall e intanto se slunga e terrestre le aggratas tua rabbia o la tua nostalgia con la faccia malmustosa de quanche retre de san e quanti topi in sé miran come sinceri prema e derunze in derureggia dopo te spunge ne poi ne van. Oh Lord, please tell me in the golden hades. Oh Lord, please tell me un secco de fates quando tira il vento e spigato il fior e sbanda la farfalla però se ne dal cielo. Oh Lord, please tell me terra a terra e onde di spuma selvaggia, fiori scappati di serra e foglie che giran la faccia. Terra, terra, terra e ulivi coi muscoli grossi, radici e contorni di sassi, ricordi che noi sorpassi. Tramonto, vuoi dirmi qualcosa dai muri bianchi di Ostuni? Tramonto, vuoi sempre colpirmi? Tramonto, però non tradirmi. La nostalgia si muove e ha preso una casa a sud, lontano da quando piove, ha preso una casa a sud. Io bevo uno strano liquore, io bevo dal sole in bottiglia, io sono un viandante suonante, io sono il vento che sbaglia, io sono un ladro di ombre, io sono un guerriero in vestaglia. Terra, terra, con chi rubate ai rimpianti, bicchieri riempiti di spalle e sabbia negli occhi distanti. Terra, terra, terra, profumi di frutti contenti e questo sorriso bandito lo tengo stretto coi denti. Tramonto, arancione d'Irpinia, qui in valle preparan la festa. Tramonto, se provi a distrarmi, la luna te la rompo in testa. Tra le nubi rotte rotola il sogno avvolto dentro un panno, tampona ogni taglio con foglie d'autunno, striscia la serpe del lungo sospiro, diventa una lancia, poi torna uno zero. C'è una stella caduta dove vedi un tombino, c'è una perla perduta dove trema la mano. Nel nom del tut, nel nom della gota, nel nom del sempre, nel nom del mai, nel nom del com'è, nel nom del quant, nel nom del due, nel nom del chi. E la rit la tua ferita, perché ormai l'è una tua misa, pensè come sonagli e sbagli, sarà nella valisa. Chi buffa più se fuori, manda la sua vela, chi ha coraggio il cur, se il fil te ragnatela. A volte scordo i nomi, a volte scordo quando, a volte scordo il senso di quello che domando. Ora il mio occhio è un proiettile stanco e parlo al mio Dio come a un compagno di banco. Ho rimesso in gioco ogni spina di rosa, perché il fiore non basta a ritare qualcosa, ma nascosto nel fosso a cercare chi ero. Ho saltato il confine come il rospo più oscuro. Nel nome del Tut, nel nome del Nagot, nel nome del sempre, nel nome del mai, nel nome del com'è, nel nome del quant, nel nome del due, nel nome del chi. Garofani aperti e profum che per anno inseguì, con tipè oramai infrantum, ma con tipà sguarì. Farfai che pare in qua di burla giù della luna, i vaseni, i lampioni e i svolti la sultana. E ascoltando il lamento dei pugnali pentiti, ci siamo trasformati in guaritori banditi. I passi francobolli si fissano al sentiero, spedendomi lontano fin dove son straniero. Qualcuno cova guerre, poi scalcia come un mulo, ma è solo strategia per non sentirsi solo. Siamo figli del contrasto, siamo biglie nel secchiello, cacciatori del disastro con scorpioni nel cappello. Strappare penne al falco sentendo il suo dolore, e con le stesse penne scrivi lettere d'amore. Strappare penne al falco sentendo il suo dolore, e con le stesse penne scrivi lettere d'amore. Nel nome del Tut, nel nome del Nagot, nel nome del sempre, nel nome del mai, nel nome del com'è, nel nome del quant, nel nome del due, nel nome del chi. Questa ombria se la veranda e guarda tutta là che può vedere, gabbiani se taggio nell'acqua calma e fissa in la memoria di Soec, quell'onda che vesciava sal puntil, un tempo urtava in spala i barchi re, pirati commercianti e pescatori, tacca la vela o ai remui per viaggià. E metti ai tempi che ribraghe curt e un toc di legno in buca per imparare a fumare. Curevi senza scarpe in suoi bucioni per farsi una barchetta cui ciò col compensa. Però d'està ruava lui, quel professore in barca vela con la giacchetta e con di già puntava se tu ci so storie che tu ma lui le la studia, de quanche l'isola brusava e su rallax e combatteva, e il barbarusa fu l'armà che un po' mardiva, un po' ruava, quanti santi e top de merda che passavano per sti strat, e longobardi e partigiani, Garibaldi e Sfrusatù, e il mio paese pareva un libro con la storia in processione, e per la storia la ramega, e per la storia burla giù, e ogni tanto la si rialza e la rifanca i stessi rur. E me che intanto guardavi la sua tusa vestita con tirop della boutique, diceva che giù al mar che è una gran spiaggia, ma l'oltra spunta che te natru alla te. E me che ai tempi che eri braga e curt, i beci nella sacoccia e una cotte risparmia. Curevi tu cite alla biblioteca per diventare un professor e un bel detra per il mar. Era una sera con quella tusa, se menso l'isola Brachette e che se rompun le cul vesti della boutique e me con quel del me fredel se sem basate tre una cesa su da una lena senza nom e me ve po di garantì che dall'isola bruciava come quando era il Barbarossa e la guerra su rallac o mai pudu fa il professor e al mar su naduma fa il bagn manca senza na l'oltra spunda l'ho truada e la mia storia la rampega e la mia storia borla giù. Ma tu ci te la mere gorda che se quella spunda l'ho basata. Ieri in don prima del tempo, ieri in tusane, ieri in mam, con sciaumaton fa de saon, de sfrega fort per lava i pagni, e gli han portato i spalle il fe, e per i fiei fa sen de legn, e gli han portato ta scusa, quel spalghe stava più. E gli hanno tassù e gli hanno specià che qua i vedon tornassi in dre con la divisa una valisa o anche con più scianagot e gli hanno pregà fino a strepà fatti ciccio della sua cruz fa che quell'om che torna ca siamo quell'om che un dì le na. Ti scrivo da un posto forse non c'è e piango guardando le mille persone che non sono te talmente lontano che sbiadirà l'inchiostro e anche sta foto con sopra un'accia che non sa chi è la solita faccia, la solita bocca che si chiede perché non è lì con te. Non piangere Agata e guarda la valle. Dai che ritorno con questa distanza dietro le spalle. Aspettami Agata, Valletta è l'ultima. Il prossimo bacio che io scriverò sarà su di te. E basta, basti me, che t'hai in demesti del mondo e senti il sentimento che subesserà tu ci uns e per fare un falò bruserò questi letter del lacrime e per innanzi al fuoco i tuoi accugheranno in un attimo. Ieri in don chiusive nel tempo, ieri in tusane, ieri in mam, ieri in stracche, ieri in stuf, deteni il corso a capagna, e ieri in letus nella val, in plutuna come sulda, pronta a sparare soci lontan, per na cerca chi ieri in specia. E gli han tassù e gli han vedù che qua i vedon tornava in dre con visa o una valisa o anche con più scianagot con la divisa o una valisa o anche con più scianagot. Thank you. alba bianca, come os de seppia, come un cugial de bicarbonà, la sabbia ciara, specia l'impronta del passaspas nell'orologio che va. E anche stamena che è una domanda, come un tatuaggio su i bracci del frec, in due godenà, cosa go fa, cosa porti in tre, quando torni a ca. Vagabondi in che, come serie, una borsa straccia senza più misteri, pronta rimbalza come una paleta, pronta fa de tut per tegni na got. Vagabonde sempre, che può mai fermarsi, tutto il fuoco al cuore con la pressa in braccio, pronta a bevonfia tutta la distanza, pronta a tossì e per spidare la fe. E son del mat, e son del broc, lo zero sulla carta dei tarocc, quel che ci fu la tente di sdena, e sul talmun senza pensa, cominciò l'andare senza cognizion, missionari senza religion, e il tempo è un can che mi cagna il tiro, ma nella mia Ungria no, se son mai scondì. Ma mi venissen po' di scurca un leggio, una culazione, po' di fat balà se suoni una canzon, ma te resterà neanche al menom. E le questo il prezzi, e le questo il dazzi, su tel fioc de nev che te faccia fai in man. Ma dopo un attim si son deslingua, quante sente fresh, me un giamonà. E son del mat, e son del broc, lo zero sulla carta dei tarocc, quel che ci fu la carta di sdena, de son del mon senza pena, cominciò l'andare senza cognizion, un missionari senza religion, e il tem l'encan che me cagna al cu, ma nella mia ombria, no no, se son mai scondù. E son del mat, e il porbitoc, la barca senza riva puntiosa toc, la faccia licenziata d'alto spec, quella che ritrova quante bellecce, prima ti fu pena pa deve seguim, te disi rob che vergogna dim, te veciame scemo o troppa los. Ma questa mia via, varda, le tu da zo che dos, e ghe di avituas. Camisa quadri d'encera denti in del fazzulet, non uve ombria, puja la roda de sto trattur, e il sul par quasi sburg, de tut quel che capis un pie, te me domande cu se che peni, ma pensi te domanda la te. Nonno con troppi anni, per vecca mo la tua scheatrizza. Nonno senza paura, de pizza un'altra sigaretta. Da mi occupai bombardamento, da mi occupa questa terrassa. Te occupa men al catram che te fumet, ma quel che adesso a ter alto pra. E mi impara a fame a tanta sot, quanche gire in stagione. E il sem che il tempo il passa, e quanche il passa che sempre presto, e cambierà la sua pelle come la cambierà la pizza. Nonno nel Camais faranno un parcheggio di quattro piani. Nonno due ghere di besti venderanno i surgelà. L'emmena la prima volta che vedo la luna cambiare la sua forma, ma ogni volta che la sparis che han sempre paura che torna più. Nonno quante domande che seminiamo senza concime. Nonno come vorrei dirti che è giusto e va tutto bene, ma intanto che parti il tramonto adesso che riesci a muovere del. Pensi che il tempo è già come un tor e che posso mi affermare. E mi imparà a fare tanta sorte, quanto gira in stagione. E il sen che il tempo passa, e quanto il passa da sempre presa. E cambierà la sua pelle come la cambierà la pizza. Quai volta e inseguì un tela busarda che la manta la luce anche quando la gepie e invardà il nostro riflesso in un'acqua bastarda che se scunti in dell'acqua quando la scappa del fiem. E quanti noci a reclamare una fetta d'elena, dai dai dai dai fie, che fa turta le anca mo piena, e su tal porte quai ven, preparava i red per pesca, e su tal porte quai ven, ripassava quel che l'era studia, e sul balcon una donna l'accusiva qualcosa a memoria, e sul balcon i fiulit con la tua stessa presa de nan. Scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, dai. La saccoccia tutta piena dei gettoni, perché quanche ruere bisognerà telefonà. Mamma, mamma, nonna, nonna, tutto il viaggio tutto bene, si è arrivati niente meno che a Cangù. Che tra un po' attacca il concerto, siamo già dentro il palazzetto tutto pieno di esaltati come noi. Suonerà quel gruppo strano con quegli uomini d'argento, con la vus che la paro molto car. La chica. Guarda come le granda la pianura di questa Brianza, senza lago e senza montagna, alle facil più capina cot. Guarda quanti negozi e tanti lus come a Capodan. Guarda come l'eleganta quella chiusa col vestito celeste. Siamo scesi dalle valli come lupi, coi vestiti dei mercati e il profumo del... cementata, la farà cambiare la strada a tanti del paese. C'è un sortilegio forte o recente, non fa capir più niente, ci vuol tenere qua. Ma dentro questo nodo di foschia io sento il mio richiamo e penso a casa mia. Ragionevolmente banale, niente di speciale, come chi se ne andrà via. Il viaggio serve a farci capire chi è fatto per partire, chi è fatto per restare qui. Ma intanto, guarda come sei in pena, la salita per la Val Cudera, guarda come è lunga quella strada che porta lì fin. Senta come le forze e il bufan dei camini in Valsasna, da come l'usis questo sasso della ghetto pallù. Lo tengo io, lo tieni tu, e quai volta pensi qui una stella bzarda, ma le sta proprio bel na cadrea la sua luce. E guarda il nostro riflesso in quest'acqua bastarda, che però alla fin la sposa i nostri ecci, la sposa i nostri ecci. Jazz, qualche olasain sul bordo del piat, resta l'ombria di una maschera storta e una perla nella sabbia del gat. Forse le un'ala sbattuta di noce, quanche la gente la capie neanche ai facci. Resta il fracas di chi sarà la porta, quanche il turna in tre del soffiaccio. Ogni semaforo al volo avrai ragione, ogni rotabile è un pezzo di canzone. Smorsa la radio, senti che bel vento cal porta i sospiri e una luna in persona. Guarda la strada e fammi la foto per una scambia alto fresco un tel colt. In due la strada finiva de cult, come in sciacquura giùs te faceva un solt. Oh Lord, please tell me in the golden hades. Oh Lord, please tell me who secco de fates. Quando tira il vento ha spiegato più e mastica sto cuore un cœur fa de chewing. E breve tasca uscial e intanto il ses lunga e te reste le aggratas la tua rabbia o la tua nostalgia con la faccia malmustosa de quanche retrete san. E quando so vincer mira come si inseri prema e te runze dell'ureggia dopo i te punge ne poi ne van. Oh Lord, please tell me in the golden hades. Oh Lord, please tell me tu secco de fates. Quando tira il vento e spigato il fior e sbanda la farfalla però se ne dal cielo. Oh Lord, please tell me in the golden hades. Oh Lord, please tell me who sei gode fares. cel che se desse nel sugo slarga i braccia in cambio il veito i machin gumeran di impronta sul tavia andranno a gracidare sulla tangenziale si ambisce in damigiana che in faccina agrodulz la noia in salamoia parol che paren schiaff il giorno al suo cartello con scritto che fa bello lo mangeremo tutto col cucchiaio e col coltello ferma la tua scarpa sul caffè dell'ascensore vita cerbottana che te spara addossi Fiala tutta quest'aria che per rua più se lontan come caccia vit a gira nell'ecce noc la vit che ferma il sogno a cerca mol so bac ogni rusa ripremo pal per ti toc ma guai vede mi a treva ogni bestemmia la sen giri se menz per la preghiera ne va specchio, specchio, che te siete il solito bucer slot machine che spude in fe la gianda di quel che t'han mangia yeah fiala tutta quest'aria che s'è perduta questa giornata andiamo se la tua ombria de terra se la dedisca la sede staccata te fetti in tempo a cure cadre maglietta le spurca de tut ero il dio del tuono e adesso vol magut stringiamo il martello e pie picchi bel precis ul verde sas e una quai cicatris nel calderone magico della bitumiera gira l'incantesimo de acqua e de terra il badil è la mia lancia la cazzola la mia spada il mio scudo l'el frataz che carezza la faccia e pietra bacia pietra e per maton sura maton traccio le mie rune cul mazzotte cul picon verranno giganti del ghiaccio e demoni

terra, terra, terra, profumi di frutti contenti, e questo sorriso bandito lo tengo stretto coi denti. Tramonto arancione d'Irpinia, qui in valle preparan la festa. Tramonto, se provi a distrarmi, la luna te la rompo in testa. Quai volta en seguì una stella busarda, che la manta la luce an man la gepie, en vardal nostri fles in un'acqua bastarda, che se scuntin dell'acqua la scappa del fiem. E quanti noci a reclamare una feta d'Elena, dai, dai, dai, dai, fie, che la sua turta le ancamo piena, e su tal porte quai ven, praravai red per pesca, e su tal porte quai ven, ripassava quel che l'era studia, e sul balcon una donna